Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Ricordo una domenica d'estate, dei tempi che Silvia era viva e Irene giovane. Dovevo avere 17-18 anni e cominciavo a girare i paesi. Era la festa del Buon Consiglio, di primo settembre. Con tutto il loro tè, le visite, gli amici, Silvia e Irene non potevano andarci. Per non so che questione di vestiti e di dispetti, non avevano voluto la compagnia solita. E adesso stavano distese sugli sdrai a guardare il cielo sopra la colombaia. Io quel mattino m'ero lavato bene il collo, cambiata la camicia e le scarpe, e tornavo dal paese per mangiare un boccone e poi saltare in bicicletta. Nuto era già al Buon Consiglio dal giorno prima, perché suonava sul ballo. Dal terrazzo Silvia mi chiese dove andavo. Aveva l'aria di voler chiacchierare. Di tanto in tanto lei mi parlava così, con un sorriso da bella ragazza. E in quei momenti mi pareva di non essere più un servitore. Ma quel giorno avevo fretta e stavo sulle spine. «Perché non prendevo il biroccio?» mi disse Silvia. «Arrivavo prima». Poi gridò a Irene: «Non vieni al Buon Consiglio anche tu. Anguilla ci porta e guarda il cavallo». Mi piacque poco, ma dovetti starci. Scesero col cestino della merenda, coi parasoli, con la coperta. Silvia era vestita di un abito a fiori e Irene di bianco. Salirono con le loro scarpette dal tacco alto e aprirono i parasoli. Mi ero lavato bene il collo e la schiena e Silvia mi stava vicina sotto il parasole e sapeva di fiori. Le vedevo l'orecchio piccolo e rosa, forato per l'orecchino, la nuca bianca e dietro la testa bionda di Irene. Parlavano tra loro di quei giovanotti che venivano a trovarle, li criticavano e ridevano, e qualche volta, guardandomi, mi dicevano che non ascoltassi. Poi, tra loro, indovinavano chi sarebbe venuto al Buon Consiglio. Quando attaccammo la salita, io scesi a terra per non stancare il cavallo, e Silvia tenne lei le briglie. Andando, mi chiedevano di chi era una casa, una cascina, un campanile. E io conoscevo la qualità delle uve nei filari, ma i padroni non li sapevo. Ci voltammo a guardare il campanile di Calosso. Mostrai da che parte restava adesso la mora. Poi Irene mi chiese se proprio non conoscevo i miei. Io risposi che vivevo tranquillo lo stesso. E fu allora che Silvia mi guardò dalla testa ai piedi e tutta seria disse a Irene che ero un bel giovanotto. Non sembravo neanche di qui. Irene, per non offendermi, disse che dovevo avere delle belle mani e io subito le nascosi. Allora anche lei rise, come Silvia. Poi si rimisero a parlare dei loro dispetti e di vestiti e arrivammo al Buon Consiglio sotto gli alberi. C'era una confusione di banchi di torrone, di bandierine, di carri e di bersagli e si sentivano di tanto in tanto gli schianti delle fucilate. Portai il cavallo all'ombra dei platani, dove c'erano le stanghe per le gare, staccai il biroccio e allargai il fieno. Irene e Silvia chiedevano «Dov'è la corsa? Dov'è?» Ma c'era tempo e allora si misero a cercare i loro amici. Io dovevo tener d'occhio il cavallo e intanto vedere la festa. Era presto, Nuto non suonava ancora, ma si sentivano nell'aria gli strumenti strombettare, squittire, sbuffare, scherzare, ciascuno per conto suo. Trovai Nuto che beveva la gasosa coi ragazzi dei Seraudi. Stavano sullo spiazzo dietro la chiesa, di dove si vedeva tutta la collina in faccia e le vigne bianche, le rive fin lontano, le cascine dei boschi. La gente che era al buon consiglio veniva di lassù, dalle aie più sperdute e da più lontano ancora, dalle chiesette, dai paesi oltre Mango, dove non c'erano che strade da capre e non passava mai nessuno. Erano venuti in festa sui carri, sulle vetture, in bicicletta e a piedi. Era pieno di ragazze, di donne vecchie che entravano in chiesa, di uomini che guardavano in su. I signori, le ragazze ben vestite, i bambini con la cravatta, aspettavano anche loro la funzione sulla porta della chiesa. Dissi a Nuto che ero venuto con Irene e Silvia e le vedemmo che ridevano in mezzo ai loro amici. Quell'abito a fiori era proprio il più bello. Con Nuto andammo a vedere i cavalli nelle stalle dell'osteria. Il bizzarro della stazione ci fermò sulla porta e ci disse di fare la guardia. Lui e gli altri sturarono una bottiglia che scappò mezza per terra, ma non era per bersela. Versarono il vino che friggeva ancora in una scodella e lo fecero leccare all'aiolo che era nero come una mora, e quando lui ebbe sorbito gli piantarono quattro frustate di manico sulle gambe di dietro perché si svegliasse. L'aiolo prese a sparar calci chinando la coda come un gatto. «Silenzio», ci dissero, «vedrai che la bandiera è nostra». In quel momento sull'uscio arrivarono Silvia coi suoi giovanotti. «Se bevete già adesso», disse uno grasso che rideva sempre, «invece dei cavalli correrete voi». Il bizzarro si mise a ridere e si asciugò il sudore col fazzoletto rosso. «Dovrebbero correre queste signorine», disse, «che son più leggere di noi altri». Poi Nuto andò a suonare per la funzione della Madonna. Si misero in fila davanti alla chiesa. La Madonna usciva allora. Nuto ci strizzò l'occhio, sputò, si pulì con la mano e imboccò il clarino. Suonarono un pezzo che lo sentirono dal Mango. A me piaceva, su quello spiazzo, in mezzo ai platani, sentire la voce delle trombe del clarino, vedere tutti che si inginocchiavano, correvano e la Madonna uscire dondolando dal portone sulle spalle dei sacrestani. Poi uscirono i preti, i ragazzi col camiciolo, le vecchie, i signori, l'incenso, tutte quelle candele sotto il sole, i colori dei vestiti, le ragazze. Anche gli uomini e le donne dei banchi, quelli del torrone, del tirasegno, della giostra, tutti stavano a vedere sotto i platani. La Madonna fece il giro dello spiazzo e qualcuno sparò i mortaretti. Vidi Irene bionda bionda che si turava le orecchie. Ero contento di averle portate io sul biroccio, di essere in festa con loro. Andai un momento a raccogliere il fieno sotto il muso del cavallo e mi fermai a guardare la nostra coperta, le sciarpe, il cestino. Poi ci fu la corsa e la musica suonò di nuovo mentre i cavalli scendevano sulla strada. Io con un occhio cercavo sempre il vestito a fiori e quello bianco. Vedevo che parlavano e ridevano. Cosa avrei dato per essere uno di quei giovanotti e portarle anch'io a ballare? La corsa passò due volte, in discesa e in salita, sotto i platani, e i cavalli facevano un rumore come la piena del Belvo. L'aiolo lo portava un giovanotto che non conoscevo. Stava chinato con la gobba e frustava da matto. Avevo vicino il bizzarro che si mise a bestemmiare. Poi gridò evviva quando un altro cavallo perse un passo e andò giù di muso come un sacco. Poi di nuovo bestemmiò quando l'aiolo alzò la testa e fece un salto. Si strappò il fazzoletto dal collo, mi disse «bastardo che sei» e i Seraudi ballavano e si davano zuccate come le capre. Poi la gente cominciò a vociare da un'altra parte, il bizzarro si buttò sul prato e fece una giravolta grosso com'era, picchiò in terra la testa. Tutti urlavano ancora. Aveva vinto un cavallo di neve. Thank you. Dopo, Irene e Silvia le persi di vista. Feci il mio giro al tirassegno e alle carte. Andai a sentire all'osteria i padroni dei cavalli che litigavano e bevevano una bottiglia dopo l'altra, e il parroco cercava di metterli d'accordo. Chi cantava, chi bestemmiava, chi mangiava già salame e formaggio. Di ragazze non ne venivano in quel cortile, sicuro. A quest'ora Nuto e la musica erano già seduti sul ballo e attaccavano. Si sentiva suonare e ridere nel sereno. La sera era fresca e chiara. Io giravo dietro le baracche, vedevo alzarsi i paraventi di sacco. Giovanotti scherzavano, bevevano, qualcuno rivoltava già le sottane alle donne dei banchi. I ragazzi si chiamavano, si rubavano il torrone, facevano chiasso. Andai a veder ballare sul palchetto sotto il tendone. I Seraudi ballavano già. C'erano anche le loro sorelle. Ma io me ne stetti a guardare perché cercavo il vestito a fiori e quello bianco. Le vidi tutte e due nel chiaro dell'acetilene, abbracciate coi loro giovanotti, le facce sulla spalla, e la musica suonava portandole. Fossi Nuto, pensai. Andai sotto il banco di Nuto e lui mi fece riempire il bicchiere anche a me, come ai suonatori. Mi trovò poi Silvia disteso nel prato, vicino al muso del cavallo. Stavo disteso e contavo le stelle in mezzo ai platani. Vidi di colpo la sua faccia allegra, il vestito a fiori tra me e la volta del cielo. «È qui che dorme!» gridò. Allora saltai su e i loro giovanotti facevano baccano e volevano che stessero ancora. Lontano, dietro la chiesa, delle ragazze cantavano. Uno si offrì di accompagnarle a piedi, ma c'erano le altre signorine che dicevano «e noi?» Partimmo al chiaro dell'acetilene e poi nel buio della strada in discesa andai adagio ascoltando gli zoccoli. Quel coro dietro la chiesa cantava sempre. Irene s'era fatta su in una sciarpa. Silvia parlava della gente, dei ballerini, dell'estate, criticava tutti e rideva. Mi chiesero se avevo anch'io la mia ragazza. Dissi che ero stato con Nuto a guardar suonare. Poi, poco alla volta, Silvia si calmò e un bel momento mi posò la testa sulla spalla. Mi fece un sorriso e mi disse se la lasciavo stare così mentre guidavo. Io tenni le briglie, guardando le orecchie del cavallo. Cinto se lo prese in casa nudo, per fargli fare il falegname e insegnargli a suonare. Restammo d'accordo che se il ragazzo metteva bene, a suo tempo gli avrei fatto io un posto a Genova. Un'altra cosa da decidere: portarlo in Alessandria all'ospedale, che il dottore gli vedesse la gamba. La moglie di Nuto protestò che erano già in troppi nella casa del Salto, tra garzoni e banchi a morsa, e poi non poteva stargli dietro. Le dicemmo che Cinto era giudizioso. Ma io lo presi ancora da parte e gli spiegai di stare attento. Qui non era come la strada di Gaminella. Davanti alla bottega passavano macchine, autocarri, moto che andavano e venivano da Canelli. Guardasse sempre prima di attraversare. Così Cinto trovò una casa da viverci e io dovevo ripartire l'indomani per Genova. Passai la mattinata al Salto e Nuto mi stava dietro e mi diceva: «Allora te ne vai, non ritorni per la vendemmia?» «Magari mi imbarco», dissi, «ritorno per la festa, un altro anno». Nuto allungava il labbro come fa lui. «Sei stato poco», mi diceva, «non abbiamo neanche parlato». Io ridevo. «Ti ho perfino trovato un altro figlio». Levati da tavola, Nuto si decise. Pigliò al volo la giacca e guardò in su. «Andiamo attraverso», borbottò. «Questi sono i tuoi paesi». Traversammo l'Alberata, la passerella di Belbo e riuscimmo sulla strada di Gaminella in mezzo alle gaggie. «Non guardiamo la casa», dissi. «Anche il valino era un cristiano». Salimmo il sentiero. Era uno scheletro di muri neri, vuoti, e adesso sopra i filari si vedeva il noce, enorme. «Sono rimaste soltanto le piante», dissi. «Valeva la pena che il valino roncasse. La riva ha vinto». Nuto stava zitto e guardava il cortile tutto pieno di pietre e di cenere. Io girai tra quelle pietre e neanche il buco della cantina si trovava. La maceria l'aveva turato. Nella riva degli uccelli facevano baccano e qualcuno svolava in libertà sulle viti. «Un fico me lo mangio», dissi. «Non fa più danno a nessuno». Presi il fico e riconobbi quel sapore. «La madama della villa», dissi, «sarebbe capace di farcelo sputare». Nuto stava zitto e guardava la collina. «Anche questi sono morti», disse. «Quanti ne sono morti da quando sei partito dalla mora?» Allora mi sedetti sul trave, che era ancora lo stesso, e gli dissi che di tutti i morti non potevo levarmi di mente le figlie del Sor Matteo. «Passi, Silvia, è morta in casa, ma Irene con quel vagabondo, stentando come ha stentato, e Santina. Chissà com'è morta Santina». Nuto giocava con delle pietruzze e guardò in su. «Non vuoi che andiamo a Gaminella in alto? Andiamoci, è presto». Allora partimmo e Nuto si mise avanti per i sentieri delle vigne. Riconoscevo la terra bianca, secca, l'erba schiacciata, scivolosa dei sentieri e quell'odore rasposo di colline e di vigna che sa già di vendemmia sotto il sole. C'erano in cielo delle lunghe strisce di vento, bave bianche, che parevano la colata che si vede di notte nel buio dietro le stelle. Io pensavo che domani sarei stato in Viale Corsica e mi accorgevo in quel momento che anche il mare è venato con le righe delle correnti e che da bambino, guardando le nuvole e la strada delle stelle, senza saperlo, avevo già cominciato i miei viaggi. Nuto mi aspettò sul ciglione e disse: «Tu, santa, a 20 anni non l'hai vista. Valeva la pena, valeva. Era più bella di Irene, aveva gli occhi come il cuore del papavero, ma una cagna del boia. Possibile che abbia fatto quella fine?» Mi fermai a guardare giù nella valle. Fin quassù non ero mai salito da ragazzo. Si vedeva lontano fino alle casette di Canelli e la stazione e il bosco nero di Calamandrana. Capivo che Nuto stava per dirmi qualcosa e non so perché mi ricordai del buon consiglio. «Ci sono andato una volta con Silvia e Irene», chiacchierai, «sul biroccio. Ero ragazzo. Di lassù si vedevano i paesi più lontani, le cascine, i cortili, fin le macchie di verde rame sopra le finestre. C'era la corsa dei cavalli e sembravano tutti matti. Adesso non mi ricordo più nemmeno chi l'ha vinta. Mi ricordo soltanto quelle cascine sui brichi e il vestito di Silvia, rosa e viola, a fiori. Anche Santa, disse Nuto, una volta si è fatta accompagnare in festa a Bubbio. C'è stato un anno che lei veniva a ballare soltanto quando suonavo io. Era viva sua madre. Stavano ancora alla mora. Si voltò e disse, si va? Riprese a condurmi su per quei pianori. Di tanto in tanto si guardava intorno, cercava una strada. Io pensavo come tutto lo stesso, tutto ritorna sempre uguale. Vedevo Nuto su un biroccio condurre Santa per quei bricchi alla festa, come avevo fatto io con le sorelle. Nei tufi sopra le vigne vidi il primo grottino, una di quelle cavernette dove si tengono le zappe, oppure, se fanno sorgente, c'è nell'ombra, sull'acqua, il Capelvenere. Traversammo una vigna magra, piena di felce e di quei piccoli fiori gialli dal tronco duro che sembrano di montagna. Avevo sempre saputo che si masticano e poi si mettono sulle scorticature per chiuderle. E la collina saliva sempre. Avevamo già passato diverse cascine e adesso eravamo fuori. «Tanto vale che te lo dica», fece Nuto d'improvviso senza levare gli occhi. «Io so come l'hanno ammazzata. C'ero anch'io». Si mise per la strada quasi piana che girava intorno a una cresta. Non dissi niente e lo lasciai parlare. Guardavo la strada. Giravo appena la testa quando un uccello o un calabrone mi piombava addosso.